Ma sì, io in fondo non voglio solo l'essenziale, perché quello che mi godo di più è il superfluo. Io rivoglio la mia Vespa, voglio la pizza la domenica, voglio un tappeto colorato, non voglio mendicare dagli amici. Sì, io voglio tutti i 600 canali di Sky. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 9 minuti, questa è la D24, sono Matteo Caccia e sono qui. La storia ci dimostra che lo sviluppo non è sostenibile. È semplice da capire perché il mondo reale non è un mondo meccanico e gli economisti hanno negato l'evidenza dei limiti fisici. Allora è chiaro anche per un bambino che una crescita infinita non è possibile su un pianeta finito. È praticamente tutto il fine settimana che mi sono fissato con questo signore qua e con quello che racconta. Questo signore si chiama Serge Latouche, è un signore francese che è, diciamo, l'ideatore di quella che viene definita la decrescita, ed è semplicemente il modo per poter vivere con meno soldi, e soprattutto utilizzando in maniera più blanda possibile le risorse del pianeta. Ora, in realtà il mio problema è molto più piccolo, cioè non ha a che fare con il consumo di tutti i combustibili che si trovano sotto la crosta terrestre, è proprio che sto facendo i conti, mi faccio i conti in tasca. Io ho questo rapporto con il denaro, per cui io non tengo il conto. Prima su Facebook ho scritto proprio questa cosa qua, che io provo molta invidia nei confronti delle persone che sanno tutto quello che spendono, perché se lo segnano e arrivano a fine mese e sono tranquilli, oppure sono depressi, dipende dal punto di vista, però sono tranquilli perché sanno quanto hanno speso e sanno quanti soldi gli rimangono in tasca. Invece io purtroppo, dico purtroppo perché in realtà mi piacerebbe riuscire a farlo, non riesco a tenere il conto, ma non è che non riesco perché non c'ho una penna e un foglio di carta per segnarmelo, no, è proprio che questa roba mi mette un po' di malinconia. Cioè il fatto che adesso io mi sto ricostruendo casa, mi sto acquistando la roba e devo arredarla e sto praticamente ripartendo da zero. Se io mi metto lì e calcolo tutto quello di cui ho bisogno, è come se mi venisse un mancamento. È come se non riuscissi a concepire il fatto che ci vogliono tutti quei soldi per vivere. 800240024 349-238-6666. Oggi, quando ho scritto su Facebook questa cosa del fatto che invidio le persone che sono in grado di tenere i calcoli di quello che spendono, si è creata immediatamente una sorta di barriera, due fazioni pronti via proprio, che sono quelli che tengono i conti di tutto quello che spendono e quelli che invece vanno a caso e poi ci sperano. Vi faccio un esempio. Luisa mi dice: è più forte di me. Non ci penso semplicemente, ma accade nella mia mente. Ogni volta che pago qualcosa, nella mia testa si aggiorna il saldo del mese. Certo, non tengo conto di spese piccole, caffè e giornali, ma diciamo che dai 20 ai 30 euro in su, più o meno tengo traccia. Di solito sbaglio di un centinaio di euro in più o in meno. Lo so, sono tristissima. Direi no, che non è tristissima, è che proprio accade così. Susanna: certo che si faccio. Io sono una di quelle persone. Oggi ho speso 30 euro di benzina, 2 euro di caffè, 4 euro di calze, 75 euro di borsa di pelle, 5 euro per un ombrello. Ogni giorno mi scrivo tutto quello che spendo, così tengo sotto controllo le mie spese. Fa niente se poi puntualmente alla fine del mese non faccio il resoconto, perché non mi interessa più. Quando i soldi li hai spesi, basta. 800240024 349-238-6666. Se siete di qui o se siete di lì, o magari ci avete provato, c'è gente che ci ha provato e poi ha smesso, no? Io mi ricordo mia mamma, qualche tempo fa, quando eravamo poveri probabilmente, adesso mia mamma di là dall'altra parte della radio mi starà tirando degli insulti, quando eravamo poveri teneva il calcolo di tutte le cose, ogni mese aveva questo quadernetto con sopra segnato tutto quanto. Ma ci sono delle persone anche qui in radio, c'è una ragazza che lavora qui che mi raccontava che lei fa tutti i calcoli, addirittura un'applicazione dell'iPhone per tenere il calcolo. Magari dopo, se ha voglia di entrare, le chiedo come fa. 800240024 349-238-6666. Facciamovi i conti in tasca. Cioè, quanti soldi spendete, ma soprattutto tenete il conto di quello che spendete, e se no, come fate? Andate avanti lo stesso? 80024 0024. Quando ho venduto tutto forse è un po' esagerato, effettivamente, però alla fine sono anni che penso che noi viviamo con molto di più di quanto ci sia realmente necessario. Perché alla fine siamo nati in questo mondo qui, no? E quindi siamo abituati che l'acqua esce dal rubinetto come se fosse una cosa naturale. Non solo, però, cioè, noi crediamo che alla fine avere da compiere 8 ore di lavoro al giorno ci garantisca automaticamente un tetto sopra la testa, il riscaldamento d'inverno e l'aria condizionata d'estate. 3 pasti al giorno, e poi il cinema, lo sport, la musica, la televisione, i vestiti, l'elettricità, i viaggi, le medicine per quando siamo malati, potrei avere dei bambini e mandarli a scuola, i maglioncini di cashmere, l'aperitivo, i gioielli, la PlayStation, insomma, tutto. Mi sono accorto che nulla è naturale, e nulla è dovuto se non la pioggia, come quella che scende oggi. Se fossimo nati, non dico a Tanna, che è un'isola sperduta nell'Oceano Pacifico dove vivono più o meno come i primitivi, ma nel Togo, ad esempio, ma anche solo nell'Albania di 40 anni fa, cosa avremmo avuto di così rassicurante? Niente. E in fondo anche oggi vediamo persone che nelle nostre città faticano ad avere l'essenziale per sopravvivere. Eccolo, ecco qua. L'essenziale per sopravvivere. Questo è un concetto a cui non avevo mai pensato fino a qualche giorno fa. Cioè, cos'è veramente essenziale per vivere? E non ci ho mai riflettuto fino in fondo. E perché non provarci, no? Cioè, perché non tentare di lavorare sul superfluo? Sul consumismo inutile, no? Quello che è nei miei comportamenti quotidiani. Perché non liberarsi dei fardelli e salvare denaro per cose più importanti, o magari salvare tempo per attività più preziose? Ecco, più o meno ieri ho deciso che il mio imperativo sarebbe stato ridurre la vita all'essenziale. Cercando di scoprire di cosa si tratta, però, perché è pieno il mondo di filosofi che hanno parlato delle necessità. Però poi alla fine, quando ho provato a studiare Plotino, ho fatto una gran fatica e non ci ho capito niente. Per cui poi alla fine sono finito a rileggermi Harry Potter, che forse è pure scritto per i bambini, però a me fa simpatia. Cioè, lui se ne sta lì in questo castello, no? Castello di Hogwarts. E tra le altre mille cose c'è la stanza delle necessità, che è una stanza magica che può essere scoperta solo da chi ne ha davvero bisogno, dove costui troverà tutto ciò di cui necessita. Ecco, io cosa troverei? Come al solito mi sono fatto una lista. Mi sono fatto una lista delle cose di cui non posso fare a meno per sopravvivere in questa città qui. Così potrò fare i conti di quanti soldi mi ci vogliono e quanti invece sono fuffa, sono sforzi inutili e pensieri negativi. Ora, questa lingua, ovviamente, questa lista la tengo per me. Però vi basti sapere che mi ha aiutato a scoprire con quanti soldi posso vivere veramente. Vi faccio un esempio. Per vestirsi, diciamo che conoscendo i posti giusti posso cavarmela con un budget di 350 euro all'anno. Un paio di pantaloni, un maglione, qualche maglietta delle cose intime, un giaccone e un paio di scarpe. Facciamo un euro al giorno. Mangiare, tutti dicono che mangiamo troppo, giusto? Quindi capisco che con una spesa di 10-15 euro a settimana fatta bene al mercato forse ci sto dentro. E se un giorno voglio proprio esagerare, vado da McDonald's e con un euro mangio un panino con la carne e con un altro un bel gelato. Tra l'altro conosco un sacco di posti in città dove ci sono piccoli eventi, a pranzo i giornalisti mangiano gratis. E poi non sono così antipatici da controllare le tesserine, anche perché io la tessera non ce l'ho perché non sono giornalista. Serve solo un po' di faccia tosta e qualcosa di buono si raccoglie senza problemi. Ah, poi ovviamente lo stesso vale per molti posti dove si fanno gli aperitivi, no? Cioè, mai una volta in piedi al bancone col piattino in mano mi è stato chiesto se avevo ordinato. Quindi diciamo, 2 euro al giorno vanno bene. Se ci voglio aggiungere una colazione al bar con lettura dei giornali gratis, giusto per non sentirmi alienato, ci metto altri 2,50 euro per ogni mattina e col cibo arriviamo a 4,50 euro. Sommato all'euro dei vestiti fanno 5,50 e questo per abiti e cibo. Poi ci sono bollette e mezzi di trasporto. Andiamo avanti. Risparmio sull'elettricità. Niente TV o radio, poca luce. Giro sulla bicicletta che compro per 15 euro al mercato di San Donato, compresa una piccola catena che nessuno mi ruberà, tanto è brutta e sporca. Il gas che mi serve per cucinare, sommato all'acqua, che però davvero costa poco, all'elettricità, mi darà una spesa mensile di bollette di circa 15 euro, quindi 50 centesimi al giorno, e siamo a 6. Poi ci sono telefono e PC. Per internet, vabbè, per internet cerco di succhiare wifi a qualcuno con la password. Per il telefono invece mi accontento di qualche messaggio. Diciamo quindi anche qui 15 euro al mese, 50 centesimi al giorno, e siamo un totale di 6,50 euro. Poi, altre invariabili essenziali. Dunque, se mi ammalo, la sanità è gratuita. Vantaggio di vivere in Italia. Quando giro per la città c'è pieno di orologi, fontanelle, panchine, quindi non è che avrò altri problemi. Quindi aggiungiamo 100 euro per gli imprevisti, perché voglio fare una roba realistica. E la somma viene dunque 6,50 euro al giorno per 30 giorni, fanno 195 al mese. Facciamo 200, va. Più altri 100 fanno 300. 300. Perfetto. Con 300 euro al mese io posso vivere. E se ci metto altri 20 euro per qualche paio di calze o una riparazione della bicicletta, il gioco è fatto. Dunque, con la monumentale cifra di 320 euro al mese io posso vivere qui a Milano senza rinunciare a niente di essenziale. Non male, no? E non è che sono tanto speciale, cioè non mi sono neanche tolto tanto alla fine. Pensate a quante energie e tempo risparmiati. Certo, sarà un po' un problema avere a che fare con gli amici, nel senso che la bicicletta non è che ti porta dappertutto e non sempre la gente è disposta a offrirti quando esci insieme. E vabbè, dai, i veri amici si vedono anche in questo, no? Ecco, sono un paio di giorni che io sto pensando a questa storia qua. E sto cercando di convincermi di questa genialata. Però a dire tutta la verità, è da quando ho cominciato a fare nella mia mente la lista delle cose a cui rinunciare che ammetto qualche dubbio. Soprattutto perché non avevo calcolato una variabile fondamentale, che fino a che ero ospite potevo omettere, ma che da quando ho una casa mia è la voce più onorosa di tutte, ovviamente. 550 euro di affitto mensili. E tutto solo per stare al riparo entro quattro mura e poterle riempire di mobili. Ma facciamo per assurdo, se anche non calcolassi l'affitto, cioè io potrei veramente vivere con 320 euro al mese. E se ad esempio volessi andare al cinema, o d'inverno non volessi andare in bicicletta sotto la neve, se volessi regalare un mazzo di fiori a una ragazza, se avessi voglia di andare via da Milano per un giorno o due, se volessi cambiarmi i vestiti, non mettere sempre lo stesso paio di scarpe, ma perché dovrei ridurmi all'essenziale in fondo? Facciamo così. Intanto che ci penso mi prendo una pausa dalla smania dell'essenziale. Perché dico, in fondo chi se ne frega, io non voglio solo l'essenziale. Perché quello che mi godo di più è il superfluo. Io voglio la Vespa, voglio la mia Vespa, voglio la pizza la domenica sera, voglio un tappeto colorato che domani mi vado a comprare all'IKEA, non voglio mendicare dagli amici. Io voglio Sky. Sì, l'acqua del rubinetto è magica da guardare, però io voglio la Coca-Cola. E quel maglioncino viola che ho visto oggi da Zara, che manco da Prada lo vedevo. Facciamo così, tenetevelo voi l'essenziale. Io, dopo il programma, vado alla Blockbuster e mi prendo tre film al prezzo di uno e me li guardo tutti. Perché mi piace. Ah, non solo. E li guardo mangiando un gelato. Mi piace pure averci provato, ragazzi, ma io per l'essenziale non sono ancora pronto. Se qualcuno là fuori c'è, si faccia avanti. Questa è la di 24, 80024 0024. Se dico 24 un'altra volta ho fatto il record del mondo. Io tenevo un quadernetto, poi mi sono stancato e mi sono accorto che più o meno mi ero tarato e non mi serviva più. Giuliano, beh, però non vale, perché appunto ti eri tarato sui calcoli che avevi fatto. 80024 0024 349 238 6666. Perché alla fine, diciamo che grosso modo, parlando di denaro e parlando di rapporto col denaro, le persone si dividono in quelli che fanno i conti e quelli che continuano li fanno. E l'altro giorno, quando proprio spiegavo questa cosa, che ero tormentato dall'idea di boh, me li segno, non me li segno, cosa faccio, è spuntata una ragazza che lavora qui, che banalmente è dietro di me sulla scrivania, che mi dice: guarda, io tengo i conti di tutto e lo faccio addirittura con un'applicazione dell'iPhone. Ciao Anita. Ciao Matteo, ciao a tutti. Allora, Anita è l'assistente di quanti programmi qui? Ma qualcuno, insomma, programmi che vanno in onda al weekend. Dai, fanne qualche nome, Anita. Ferry Boat, Economia in Pagina, Incontri, 2024, eccetera, tutta roba, eccetera. Tutta roba seria. Allora, Anita, tu tieni il conto di tutto quello che spendi, sì. Ma non tutto, come scriveva l'ascoltatrice di prima, che sopra i 20-30 euro, proprio tutto. No, tutto, l'euro del caffè, l'euro che metto nella chiavetta per la macchinetta del caffè, tutto. Ma quanto. Ma questo lo fai da quanto? Lo faccio da parecchi anni. Anch'io, come diceva un ascoltatore, forse via SMS, avevo un quadernetto all'inizio e segnavo tutto quanto. Ogni giorno facevo il totale di quello che avevo speso in quella giornata. Poi finalmente è arrivato l'iPhone. È arrivato Steve Jobs e ti ha dato questa applicazione. Ed è arrivata questa applicazione magica che si chiama Money Journal. e che permette di segnare giorno per giorno tutte le spese. Per esempio, oggi ho segnato nella categoria cibo, chiavetta appunto, sì. 2,50 euro. 2,50 euro, e ci hai mangiato con 2,50 euro? No, perché no, immensa. Quella mi è servita per comprare l'acqua, il caffè, cose qua. Per la mensa abbiamo i buoni, quindi quella spesa la contabilizzo il giorno in cui acquisto il blocchetto dei buoni. E visto che sono quanti buoni? 15 ti valgono per 5, 10, 15, 3 settimane. 3 settimane. E invece, scusami, tutte le spese, cioè questa cosa ti aiuta perché tieni il conto o ti aiuta a spendere di meno? Cioè, la questione è, tenendo il conto di quello che spendi, riesci a tenere da parte un po' di soldi oppure no? Sì, mi aiuta in entrambe le cose. Tengo conto di quanto spendo e contemporaneamente so quanto sto risparmiando, perché sottraendo quello che spendo a fine mese... Beh certo, è un vaso comunicante, per cui se non spendi di qua ti entra di là. Esattamente, e poi se tu ti segni veramente tutte le spese che fai ogni giorno, ti rendi conto che fai tante spese superflue, come dicevi tu prima. Però questa presa di coscienza incredibile sul fatto che la realtà è così terribile, per cui... Penseranno che io sia una pazza. No, guarda, continuano ad arrivare messaggi di persone che tengono meno i conti, male, quindi non sono è l'unica. Veramente si dividono in due categorie, probabilmente sono semplicemente due categorie, una è un po' più affollata dell'altra, cioè quelli che non contano sono semplicemente un po' di più di quelli che contano. Ma non ti fa però prendere il contatto con il fatto che è un mondo orribile questo, per cui uno guadagna in media sui... Quanto è uno stipendio medio? 1100, facciamo 1100. Facciamo 1100. E li spende praticamente tutti. Sì, infatti ci sono dei mesi in cui, adesso senza dire quanto è il mio stipendio, quanto hai speso nel mese di settembre? No, nel mese di settembre mi è andata bene perché sono riuscita a spendere 950 euro circa. Ed è buono. Per me è molto buono. Secondo me, se tu ti tenessi conto di tutte le spese che fai ogni giorno, ti renderesti conto che spendi forse altrettanto, se non di più. Dimmi però non è tanto, no? Dimmi per roba invece non essenziale, che non sia il cibo, per roba superflua, sai quanto hai speso in percentuale di questi 900 euro a settembre? Non lo so, guarda, non spendo tanto, perché comunque sto attenta e naturalmente do la precedenza alle cose essenziali. Poi non so, il giro dall'estetista, l'uscita con le amiche, tutte queste spese, non dico però superflue, tutte contabilizzate. Però tutte contabilizzate. Tutte, non sfugge niente, compreso il mutuo. Beh certo, sì, principalmente il mutuo. 800240024, la borsa, e dopo Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è un ragazzo sdraiato per terra, ma per terra in strada, però, su un marciapiede. Che in realtà non è neanche un marciapiede, perché credo che sia la parte del marciapiede dedicata alle biciclette. Sì, quindi è sdraiato su una pista ciclabile. Però è sdraiato sulla parte della pista ciclabile in cui è disegnata la bicicletta. E tra l'altro all'inizio sembra solo sdraiato, poi se lo guardi meglio sembra proprio, è proprio posizionato sulla bicicletta come se stesse pedalando su una bicicletta che però è semplicemente disegnata sulla strada. È un ragazzo che avrà tra i 25 e i 30 anni, ha una giacchetta a strisce colorata, bianca, gialla e nera, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica. Potrebbe essere o un festeggiamento perché si è appena laureato, ha la faccia di quello appena laureato, anche se ha la barba, però ha la barba non troppo segnata dei ragazzi giovani, quelli a cui viene la barba soprattutto qui sotto, avete presente? Che non viene sulle guance, solo qua, lungo il mento. Però ha una faccia simpatica, sta pedalando, non si capisce se è in Italia oppure no. Potrebbe essere, oddio, in Italia non ci sono così tante piste ciclabili, quindi è più facile immaginare che sia all'estero. Però l'importante è che sia sdraiato lungo una bici disegnata per terra. Mi chiamo Marco Cosenza, ho 28 anni. Forse il Mont Ventoux non lo scalerò mai, ma io sono qui. Continua questa piccola iniziativa di Io sono qui, ed è semplicemente una mappatura dei luoghi in cui voi che siete all'ascolto e avete voglia di partecipare vi trovate. Mandate una foto all'indirizzo Matteo Caccia Io sono qui di Facebook, oppure all'indirizzo mail del programma, che è io sono qui @radio24.it. Mi scrivete chi siete, mi descrivete la foto e mi dite dove siete esattamente. Noi stiamo pubblicando le foto sul profilo del programma, sul profilo Facebook ovviamente, che è Matteo Caccia Io sono qui, e alla fine ci sarà... sto sparando, un evento? Ci sarà una mostra, forse, non lo so. manco Paolino Corleone lo sa, forse molto di più, forse una pubblicazione. La cosa divertente però è che se voi andate a sfogliare questa pagina, adesso ci sono all'incirca 120 fotografie sulla pagina di Facebook, e fate lo scroll verticale, quindi le passate dall'alto verso il basso, è già qualcosa, è già veramente una mappatura di chi siete, che cosa fate e perché lo fate, ma soprattutto dove siete. Io sono qui, Matteo Caccia, io sono qui, oppure io sono qui, @radio24.it. 80024 invece, 0024, oppure 349-238-6666, se siete di quelli che tengono i conti, oppure di quelli che invece i conti non li tengono. Marco da Roma scrive: io non segno niente e se non mi fossi sposato sicuramente adesso avrei una bella Lamborghini, ma non mi lamento perché vedere la faccia di mia moglie che apre un regalo non ha prezzo. Questa storia del non ha prezzo, ragazzi, veramente ormai con la pubblicità ci hanno sfondato proprio. Io mi sono fatto un foglio Excel con tutte le spese divise per categorie, dividendole anche per quelle inerenti al lavoro, ma poi non verifico i totali e quindi non faccio verifiche. Quindi a cosa serve? Io vivo da sempre di essenziale, grazie a questo mi comprerò una casa senza mutuo e il tutto senza farmi mancare nulla. Marco da Brugherio, vedi che ci sono? Vedi che ci sono quelle così? Sono un artigiano che da anni campa con 300 euro al mese, ho 41 anni e vivo a casa dei miei e spero ancora nel futuro. Ciao Roby, e lo spero anch'io nel futuro, per te e per me. Come vedi dai messaggi avuti, di solito chi riesce a tenere il conto sono le donne, che sono sicuramente più brave, ma dal mio punto di vista non bisogna guardare a che cosa si spende, ma bisogna guadagnare di più di quello che si spende. Beh, Francesco, sembra la palissiano, però tutto sommato c'è anche ragione. 80024 0024, andiamo a sentire invece chi si fa i conti e come se li fa. Andiamo a provincia di Forlì. Fabio. Buonasera Matteo. Buongiorno Fabio. Tra l'altro ho detto provincia di Forlì, in realtà è provincia di Forlì Cesena. Esatto, provincia di Forlì Cesena. Ma da quant'è? Cosa sono? 2 o 3 anni che è diventata? No, saranno forse quasi 10 anni, ormai ho perso il conto anch'io. Ma ah, sono già abbastanza tempo. Ed è FC, da non confondere con Fo, che era la vecchia provincia di Forlì Cesena. Certo, perché ok, Cesena non faceva provincia. Cesena non era contemplata, esatto. Poi pian pianino abbiamo perso prima Rimini e adesso siamo a metà con Cesena. Ok, invece veniamo a noi, Fabio. D'accordo. Dunque, tu tieni il conto di tutte le spese, in che modo? Esatto, beh, con un foglio Excel, diciamo che io sin da piccolo ero portato a farmi un po' i conti in tasca. Poi ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia abbastanza agiata, a 26 anni invece ho avuto diverse vicissitudini familiari e ho dovuto cominciare a contare davvero i soldi, perché i soldi erano un po' pochi. E adesso faccio di nuovo una vita piuttosto, insomma, sto bene. Mazza, che alti e bassi che c'hai, Fabio, com'è? Sai, perché prima ero in famiglia, poi all'improvviso la famiglia perde i pezzi e all'improvviso ti trovi, quelli che rimangono devono fare fronte. E che lavoro fai, Fabio, scusami? Io adesso faccio l'informatore farmaceutico. Ah, sei di quelli che va in giro con le medicine nel bagagliaio? Bravo, di quelli che ti passa davanti dal dottore. Adesso io lavoro solo negli ospedali, non vado più. Quindi non c'è, perché effettivamente le facce di quelli che aspettano dal medico e vedono questo che arriva con la valigetta, scusate, devo entrare un secondo, faccio velocissimo. Beh, non è bello, è un lavoro odiatissimo. Per me è il lavoro più bello del mondo, ma per molti è un lavoro odiatissimo. Senti, quindi cosa fai? Foglio Excel. Foglio Excel, io praticamente ho sistemato tutte le mie uscite. E le mie e anche quelle di mia moglie, che di solito le donne sono molto più brave di noi, in realtà mia moglie è molto più... Ma tua moglie è a carico tuo oppure lei fa un lavoro per i fatti suoi? No, lei lavora in banca. Ma quindi di fatto veramente diventa un lavoro questo alla fine, cioè tu devi, come diceva Anita prima, contabilizzare tutto. Ma adesso io ti dico, io semplicemente segno tutto quello che va dal riscaldamento, mi tengo le mie bollette tranquillamente, quindi ogni anno ho quanto spendo in bolletta. Questo ti fa stare sereno, Fabio? Sì, mi fa stare sereno, ma soprattutto una cosa che mi piace molto è che, ok, io non è che segno gli scontrini, quanto ho speso per un gelato, quanto ho speso per un paio di mutande e così via, sì, però mi permette di sapere una cifra che ho sempre disponibile netta tutti i mesi. Perfetto. E scopri che puoi destinare una parte di questa cifra per qualcosa che sia un po' più elevato del classico. Quanto guadagna un informatore scientifico, Fabio? Oh, dipende da... Nel nostro caso? Nel nostro caso? Nel nostro caso sarei io? Sì. Non si può dire, non so se si può. Tra i 3 e i 4.000? No, neanche per idea, assolutamente. Tra i 2 e i 3?

sono tecnico informatico. Ah, vabbè, quindi un po' gioco in casa. Cosimo, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao a te, ciao. Grazie. Ciao a tutti, ciao soprattutto a Tiziano Bonini, ad Alessandro Genovesi, a Stefano D'Andrea, a Vittoria Mussini e a Paolino Corleoni. Ma ciao soprattutto all'amico di prima che ha chiamato e io avrei sentito solo lui per tutto il giorno. Oggi ho speso 3,50 euro per un panino, 2 euro per una coca e 1 per il giornale. Ho comprato 2 biglietti per la metropolitana e ho deciso di tenere il conto di tutto quello che spendo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete? We'll be right back.